140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco la protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. La Feltrinelli, Milano. Dopo Sanremo è Inarrestabile, un album, frasi e fumo, l'esperienza da giudice da Italia's Got Talent, presto un tour, Nina Zilli. Sono molto contenta, non ho avuto giorni liberi, che comunque è buono, nonostante sia cattivo per il mio fisico, nel senso che, come dice Bastianich, muoro, molto presto credo che muoro, però va molto bene, sono molto contenta, insomma, quando vado al festival, poi indipendentemente dal vincere o meno, ovviamente ognuno di noi, cioè dico di tutti quelli che non hanno vinto, hanno nel cassetto, no, l'ologramma del premio che speravano di avere, però poi come sempre Sanremo mi porta bene, mi porta fortuna, anche se non vinco lì, poi diciamo le mie vittorie arrivano dopo, e insomma fare un disco è un grande lavoro, io l'ho presentato lì e sono stata contenta. Sola e gli altri ballano. Mi piace farmi male e ricordare la felicità cos'è. Sola, anche prima di dormire, lo vedi fuori piove e non migliora neanche quando ci sei tu. Questo testimone di Sola, che è una canzone significativa che dice tante cose, io ho trovato in Sola tanti contenuti che poi in un certo modo si insinuano anche negli altri testi del tuo disco, che è tuo sotto tutti i punti di vista, anche come autrice, cioè la solitudine, la riflessione su se stessa, ma anche un certo benessere nell'essere sola, no? una rivendicazione della dignità dell'essere sola. Sì, esatto, perché comunque a un certo punto, insomma, la solitudine poi l'essere umano la rifugge quasi sempre, no? Ma alla fine finiamo anche per sentirci soli in mezzo alla gente, per cui inutile rifuggerla, anzi va accettata, va presa di petto, affrontata con coraggio, perché poi è lei che ci fa diventare quello che siamo, è lei che ci permette, questo incontro con noi stessi che ci permette di metabolizzare quel che ci capita, fare il piccolo passo avanti, il famoso, no? Che poi ti fa lasciare tutto quanto dietro alle spalle. E quindi sì, stare soli fa bene, chiaramente non troppo, perché poi di solitudine anche effettiva c'è chi ci è morto e di solitudine si muore, quindi è meglio infatti prenderla sempre a piccole dosi, cioè non rifugiamola, perché quello è molto pericoloso, no? Perché poi allora ti arriva tutto in una volta, una botta ingestibile per tanti esseri umani, perché comunque siamo fragili, anche se vogliamo far finta di essere forti e gagliardi. E quindi insomma, io quando ho scritto questa canzone ero esattamente in quel momento lì, quello crudo, doloroso, dove proprio ti senti uno straccio, e invece di cantare alla Bridget Jones All By Myself ubriaca con ubriaca di vino rosso, ho deciso di mettermi il pianoforte, quello è uscito, e la musica è un grande strizzicervelli in certi casi. Voglia di fumare un'altra sigaretta mentre mi domando dove sei, ho un sorriso qui per te sulle mie labbra, se lo vuoi. Sola non è mai abbastanza, però poi frasi e fumo fra di noi, tanto non è mai come vuoi. quei momenti lì sono anche quelli che ti fanno distinguere le frasi, le parole vere dal fumo. Esatto, esattamente quello. Infatti il disco si chiama anche Frasi e Fumo, è una canzone a cui tengo molto, no? Perché alla fine siamo sempre pieni di buone speranze, anche quando ci buttiamo in nuovi inizi, che sia una relazione, un nuovo inizio, una nuova strada della vita, una nuova avventura. Però poi tante volte queste parole, appunto, svaniscono nell'aria come una boccata di fumo. E quindi, insomma, è bello ripartire, ogni partenza è sempre piena di speranze, ma anche tanti punti interrogativi. Sanremo, momento di grande delirio, persone accanto a te, però uno inevitabilmente concentrato su di sé, sulla propria performance, sul proprio act, come dicono gli anglosassoni. Adesso invece è il momento in cui tu hai il rapporto col pubblico, incontrare il pubblico, i live. Esatto, sì. Beh, questa diciamo che è la cosa poi che ci piace di più, no? Nel senso che uno fa il disco ovviamente per sfogare creatività, perché cioè, è divertentissimo scrivere le canzoni, se no non saremmo qua a fare, insomma, questo lavoro. Però poi tutto è in funzione di quello che sarà il live, no? Io cantare dal vivo per me è una delle cose più belle, cioè mi diverto e finalmente posso incontrare il mio pubblico, anche semplicemente poi qui nei firmacopie chiaramente, però poi quando c'è il live, no, c'è tutto questo scambiarsi energie da me, dare, prendere con la band anche sul palco, che sono un po' la mia famiglia, suoniamo insieme da tantissimi anni e quindi tutti, non solo io, tutti non vediamo l'ora di ripartire. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Nina Zilli. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.